voglio cantare per il mio diletto un cantico d'amore alla sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna su un colle ubertoso. Egli la vangò, la liberò dai sassi e la piantò di viti eccellenti. In mezzo ad essa costruì una torre e vi scavò anche un tino. Attese poi che facesse uva, invece produsse agresto. Ed ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, giudicate tra me e la mia vigna. Che cosa avrei dovuto fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, attendendo io che facesse uva, essa produsse agresto? Ma ora vi farò sapere ciò che farò alla mia vigna. Rimuoverò la sua siepe e sarà buona a bruciare. Distruggerò il muro di cinta e sarà calpestata. La ridurrò in rovina. Non sarà potata né vangata. Vi cresceranno rovi e pruni e comanderò alle nubi di non mandare pioggia su di essa. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, gli abitanti di Giuda la piantagione prediletta. Ne attese rettitudine ed ecco invece nequizia, giustizia ed ecco invece grida di angoscia. Guai a coloro che aggiungono casa a casa, che congiungono campo a campo, finché non vi sia spazio e voi rimaniate soli ad abitare in mezzo al paese. Alle mie orecchie il Signore degli eserciti ha giurato: molte case diventeranno una rovina, le grandi e belle saranno senza abitanti. Poiché 10 iugeri di vigna frutteranno un solo bat, ed un comer di seme produrrà un solo efa. Guai a quelli che si alzano di buon mattino e corrono dietro a bevande inebrianti, si attardano fino a sera infiammati dal vino. Vi sono cetre ed arpe, tamburini e flauti e vino nei loro conviti, ma non prestano attenzione all'azione del Signore e non vedono l'opera delle sue mani. Perciò il mio popolo sarà deportato a causa della sua ignoranza, i suoi nobili moriranno di fame, la sua moltitudine sarà arsa dalla sete. Perciò lo Sheol allarga la sua gola e spalanca la sua bocca a dismisura, e vi scendono la nobiltà e la folla, il chiasso ed il tripudio della città. L'uomo sarà abbassato ed il mortale umiliato, e saranno prostrati gli sguardi dei superbi. Il Signore degli eserciti sarà esaltato nel giudizio ed il Dio Santo apparirà santo nella giustizia. Gli agnelli pasceranno come sui prati e nelle rovine dove erano le bestie grasse si nutriranno i nomadi. Guai a quelli che si attirano la colpa con funi di iniquità ed il peccato come con corde da carro. A quelli che dicono: si affretti, acceleri l'opera sua affinché la possiamo vedere, si avvicini, si realizzi il progetto del Santo di Israele e lo riconosceremo. Guai a quelli che chiamano il male bene ed il bene male, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce ed il dolce in amaro. Guai a quelli che son saggi ai loro sguardi e intelligenti davanti a loro stessi. guai ai campioni nel bere vino e dai prodi nel mescere bevande inebrianti. Assolvono l'empio per un regalo e privano il giusto del suo diritto. Perciò come la lingua di fuoco divora la paglia e come il fieno scompare nella fiamma, la loro radice diventerà una putredine ed il loro fiore si alzerà come polvere perché hanno disdegnato la legge del Signore degli eserciti ed hanno disprezzato la parola del Santo d'Israele. Perciò la collera del Signore divampò contro il suo popolo, stese la sua mano contro di lui e lo percosse. I monti tremarono ed i loro cadaveri giacquero come letame in mezzo alle strade. Malgrado ciò, la sua collera non si è ritirata e la sua mano è ancora tesa. Egli drizzerà uno stendardo ad un popolo lontano, gli fischierà dai confini della terra ed ecco che presto ed agilmente egli arriva. Nessuno tra essi è stanco, nessuno vacilla, nessuno sonnecchia e nessuno s'addormenta. La cintura dei suoi lombi non si scioglie, né si spezza il legaccio dei suoi sandali. Le sue frecce sono aguzze e tutti i suoi archi sono tesi. Gli zoccoli dei loro cavalli si direbbero pietre e le ruote dei suoi carri un turbine. Ha un ruggito come quello di una leonessa e ruggisce come i leoncelli, freme e dà di piglio alla preda, se la porta via e nessuno gliela strappa. Fremerà su di lui in quel giorno come freme il mare. Si guarderà la terra ed ecco tenebre ed angoscia, mentre la luce sarà oscurata da caligine.